Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto quindi al direttore dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti. Anche oggi trattiamo un argomento sicuramente di assoluta attualità, parliamo di numeri e di statistiche in qualche modo. Sì, userei quasi dire un bollettino di guerra, perché veramente i numeri che andiamo a parlare, effetto per uno studio commissionato proprio dalla UIL, di cui si fa anche una comparazione dei dati negli ultimi 6 anni per quanto riguarda le persone e il mondo del lavoro, risulta veramente che il tasso di disoccupazione è passato dal 2008 ad oggi dai 6,7 al 12,2%, ma soprattutto quello giovanile, e poi è peggio ancora, sostanzialmente emerge che una persona su tre nel 2013 ha conosciuto forme di sofferenza e di insicurezza. Quindi numeri sempre più alti per quanto riguarda la disoccupazione, ma d'altronde io che leggo i giornali ogni mattina proprio nella rassegna stampa vedo come ogni giorno perdiamo qualche pezzo di storia nel nostro artigianato, nelle nostre fabbriche. Io credo che chiunque di noi cammini per qualsiasi zona industriale di un qualsiasi comune o per il centro storico di qualsiasi città possa veramente rendersi conto di come questa crisi ormai sostanzialmente sta raggiungendo delle dimensioni veramente incredibili, perché ormai sono più quasi le saracinesche chiuse o quelle con scritto cedersi attività o liquidazione o svendita totale per un motivo o per un altro, rispetto a chi veramente è in attività. Oggi sopravvive solamente il franchising, dove si può permettere di fare delle guerre di prezzo, ma non certamente di qualità e non certamente di stile di vita, anche nel rispetto di chi lavora e deve lavorare anche la domenica per rimanere aperto. Però certo è che vale la pena fare una piccola analisi di alcuni dati, prenderci conto del fenomeno, perché oggi sostanzialmente, abbiamo detto, in 6 anni è stato perso 1 milione di posti di lavoro in più rispetto al 2008. 1 milione di posti di lavoro, oltre la metà di dipendenti, 567.000, è sparito nei 6 anni di crisi tra il 2008 e il 2013, appunto oltre 1 milione di posti di lavoro, ma soprattutto per i giovani si è passati dal 21,3% a oltre il 40%, quindi un numero che sostanzialmente in 6 anni è pressoché raddoppiato. Le donne e uomini che sono diventati quasi 13 milioni e le persone in sofferenza più 42,6%, che sono persone che oggi dichiarano di avere un lavoro instabile, che per effetto di questa crisi hanno subito riduzione d'orario o lo hanno proprio perso, quindi sostanzialmente una situazione che veramente non lascia veramente ben sperare e fa vedere il futuro anche con grande preoccupazione. Ecco, questi sono dati del Veneto, Carlo? Questi sono dati nazionali sostanzialmente, però i dati del Veneto non si allontanano di molto, perché quando si parla di giovani e di donne sostanzialmente la situazione è leggermente migliore, ma rispecchia abbastanza l'andamento nazionale, perché poi se dobbiamo parlare anche di esperienza per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità, nel Veneto i numeri sono addirittura maggiori rispetto al sud, in quanto sostanzialmente il fenomeno delle fabbriche che chiudono nel nord-est sicuramente si è sentito di più anche rispetto al sud. Però è anche vero che per quanto riguarda l'esperienza degli ammortizzatori sociali dobbiamo dire che c'è stato un aumento del 57%, quindi 1,5 milioni di persone in più del 2008, abbiamo addirittura oltre 3 milioni di persone alla ricerca attiva di un posto di lavoro, un aumento dell'83% rispetto sempre a 6 anni fa, e 1,8 milioni sono le persone che si sono rassegnate e non lo cercano più, esatto. Quindi addirittura abbiamo il 70% di persone che svolgono lavoro part-time in maniera involontaria, di cui sono state costrette per effetto di ridimensionamento del proprio luogo, quindi sostanzialmente una situazione che poi purtroppo non è la fine di un tunnel, ma siamo nel pieno di una crisi di cui certamente ho paura che nei prossimi anni potrà anche peggiorare. Quindi la famosa luce in fondo al tunnel qualcuno l'ha vista, ma probabilmente ha preso un abbaglio. Un abbaglio sicuramente, perché oggi interventi volti alla conservazione del posto di lavoro oppure allo stimolo all'assunzione concreti sostanzialmente non ce ne sono. i giovani sostanzialmente non trovano lavoro, le aziende sostanzialmente si trovano a non investire più nella formazione o nei giovani, e certamente un mercato del lavoro che sostanzialmente costringe poi le persone a lavorare oltre 65 anni, oltre 41 o 42 anni, ma un mercato del lavoro che, visto le cifre, secondo noi è tutto da riformulare, ma dovendo dare delle forti iniezioni di fiducia, ma anche dei contributi, non solamente per chi non chiude, ma anche dei contributi per chi, come tante aziende, lotta per conservare i posti di lavoro, ma anche assume, cosa che ad oggi sostanzialmente non ci sono tante formule in questa direzione. Certo, diciamo che è una situazione che è decisamente brutta, speriamo di sbagliarci, mi viene da dire, Carlo. Ho paura che questa volta non possiamo dirlo, speriamo solo che se arrivi veramente alla fine del tunnel si cominci a vedere una lucina, già potremmo pensare che deve fare il giro di boa. Oggi purtroppo non siamo, secondo noi, in questa situazione. Certo, stiamo annaspando per arrivare alla boa, questo è la rappresentazione che mi viene più facile. Grazie quindi all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, grazie al direttore Carlo Garofolini, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.